Abbiamo inserito un nuovo, diciamo, così come qualche anno fa, 10 anni fa esattamente, abbiamo inserito Outlook nella suite di Office. Adesso abbiamo inserito un altro sconosciuto che si chiama Communicator, appunto, serve a comunicare. Il Communicator è un'applicazione che consente di attivare questi canali di comunicazione in modo assolutamente semplice. Faccio clic col tasto destro del mouse sul nome della persona che voglio contattare. E cliccando posso decidere di mandargli una mail, un fax, di chattare con un sistema di instant messaging, di inoltrare una telefonata sul dispositivo fisso o mobile attraverso la rete IP. Quindi il communicator è l'elemento che integra tutti questi canali di comunicazione nella nuova versione di Office. Ci sono due sfide legate allo spostamento dal mondo di applicazioni a un mondo di servizi. La prima è legata al fatto che ci sono applicazioni tipiche del mondo business che comunque devono parlare con applicazioni tipiche del mondo consumer, perché ormai questo confine fra quello che è consumer Non c'è quasi più, non c'è più. o comunque le aziende che sono più arretrate subiscono quello che Assolutamente. succede nel mondo consumer. Assolutamente, cioè probabilmente amici che ci stanno ascoltando in questo momento passeranno agilmente da una conversazione di business a una totalmente privata e personale nel giro di 2 minuti, usando lo stesso strumento, il telefono cellulare, il palmare, il computer e quant'altro. La seconda sfida è legata al modo in cui vengono erogati questi servizi, perché devono essere fruibili su internet, ma devono essere magari per qualcuno fruibili attraverso strutture residenti, cioè una grande azienda non metterà tutti i suoi dati sulla rete, sulla nuvola da qualche parte, ma deciderà di gestirsi un'infrastruttura locale. Microsoft deve essere in grado di fare queste cose, cioè di rendere i servizi indifferentemente disponibili come servizi online o come piattaforma residente, così come servizi che parlino indifferentemente col mondo consumer e col mondo business. Stiamo cercando di farlo, in qualche caso ci riesce bene. Tornando al communicator, il communicator integra i sistemi di messaggistica consumer, MSN, Yahoo, America Online. Posso accedere a questi canali attraverso il communicator, che è un sistema business.